Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. In 20 anni un motore elettrico consuma mediamente in energia elettrica 50 volte il suo costo di acquisto. In altre parole, fatto 100 il denaro speso per acquistare e alimentare un motore elettrico nell'arco della sua vita utile, quindi appunto 20 anni, ma in qualche caso si arriva persino a 30, ebbene l'acquisto pesa solo per il 2%. È un dato che parla da solo, spiegando perché sia decisivo al momento dell'acquisto di un motore elettrico, soprattutto in campo industriale, orientarsi su motori elettrici ad alta efficienza. Un discorso analogo poi si può fare sugli inverter, cioè quei dispositivi che consentono di pilotare i motori elettrici esattamente come un acceleratore in un'automobile regola la velocità. Si tratta di componenti essenziali ogni volta che vogliamo pompare un fluido, per esempio acqua oppure aria, variando la portata. Pensiamo ai sistemi di ventilazione. Qui infatti si tende ancora troppo spesso a usare non l'acceleratore ma semmai un freno, cioè si preferisce usare valvole, saracinesche, insomma sistemi per strozzare il flusso anziché diminuire i giri del motore, che così continua a funzionare al massimo consumando molta energia inutile. Sia i motori ad alta efficienza che gli inverter sono oggetto di incentivi, e questo ormai da qualche anno. Incentivi di cui però poche industrie finora hanno deciso di avvalersi. Ne parliamo con Sigfrido Vignati, esperto Enea di questo settore. Buonasera Vignati. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora Vignati, quali sono gli incentivi e chi ne ha diritto? Allora, gli incentivi per i motori elettrici ad alta efficienza e i variatori di velocità consistono in una detrazione fiscale del 20%. Ne hanno diritto sia le persone fisiche che i soggetti titolari di reddito d'impresa, ovvero le aziende, al quale francamente il decreto era rivolto, certamente. C'è da dire una cosa, che per quanto riguarda i motori ad elevata efficienza c'è un range di potenza che è da 5,5 a 90 kW e per quanto riguarda i variatori di velocità da 7,5 a 90 kW. Tutti questi componenti nell'ambito di questa potenza verranno incentivati. Questo fino al 31 dicembre di quest'anno, giusto? Esattamente. Ecco, questo 20% viene recuperato nel primo anno? Sì, in un unico anno viene recuperato. Ecco, tra l'altro, se non sbaglio, questo 20% non esclude l'utilizzo dei certificati bianchi, cioè si possono, è cumulabile con i titoli di efficienza energetica, altrimenti detti certificati bianchi. Ecco, la domanda a questo punto è: ma come mai non c'è stato utilizzo di questa opzione? La procedura è complicata, per esempio? No, la procedura è molto semplice, poi gliela dirò. Io credo che il motivo per cui questa detrazione non è stata utilizzata molto dalle aziende perché il componente, soprattutto il motore ad alta efficienza, non è ancora molto conosciuto. Sembra strano a dirlo, ma probabilmente è ancora un componente che molte aziende non conoscono. Non conoscono, forse non sanno poi neanche di questa possibilità della detrazione. Questo può essere, anche se poi è stata fatta una certa promozione sia attraverso gli organi di stampa e sia attraverso le associazioni di categoria. Comunque molti non conoscono il componente e alcuni probabilmente non conoscono questo tipo di incentivi. Quantomeno non sono noti i vantaggi, che sono veramente molto significativi, l'abbiamo detto all'inizio. Ecco, andando sulla procedura, qual è la procedura per vedersi riconosciuto questo credito d'imposta? È molto semplice, la procedura consiste nel conservare la fattura di acquisto. Per i motori ad alta efficienza anche chiedere e conservare il certificato di efficienza energetica e poi compilare e scaricare, diciamo, sul sito dell'Enea, che è un sito apposta, questi dati. Questo è tutto qui, il sito dell'Enea lascerà una ricevuta e tutto va consegnato al proprio commercialista, il quale poi lo utilizzerà per ottenere la detrazione fiscale nella successiva denuncia dei redditi, in questo caso quella di quest'anno, che sarà fatta il prossimo anno. Quindi insomma una procedura assolutamente semplice che richiede, detta così, forse addirittura qualche minuto. Esattamente, veramente poco, giusto il tempo di mettere alcuni dati numerici che servono solamente per una registrazione, per un rilievo di tipo statistico sul sito dell'Enea. Questo è forse il tempo, diciamo, l'operazione. Il sacrificio che viene richiesto, esatto. Insomma. Esatto. Va bene. Grazie Vignati, non possiamo che lanciare un appello, approfittatene e soprattutto installate questi sistemi che rientrano, credo addirittura in qualche caso in 6 mesi, un anno, 2 anni al massimo. Sì, vero? È vero, poi il 20% nel caso dei motori è praticamente quasi la differenza che c'è tra acquistare un motore standard e un motore ad alta efficienza. Quindi in pratica un'azienda usufruendo della detrazione spende praticamente la stessa cifra, esatto, che a prendere un motore inefficiente. Grazie, esatto. Vignati. Prego, prego, buonasera, buonasera. Un ultimo dettaglio prima di lasciarci: la detrazione fiscale del 20% è un diritto degli utenti finali di questi sistemi efficienti. Quindi, per esempio, se un'industria acquista un macchinario all'interno del quale è installato uno di questi sistemi più efficienti, c'è appunto il diritto alla detrazione del 20%. Ci sono delle condizioni: il motore deve essere stato installato in Italia e il macchinario, per esempio, non può essere venduto all'estero. Questo è tutto. Si conclude qui la prima settimana di Kilowatt dedicata alla normativa. L'appuntamento è per lunedì. Parleremo della tariffa bioraria, stiamo parlando dell'energia elettrica che diventerà obbligatoria a partire dal 1° di luglio. Buon fine settimana a tutti.